Garam Masala. Il suono del clubbing tra down tempo e up tempo. Funk soul, afrodisco classica, re-edit house e deep house. Con Salvo Borrelli e la regia di Roberto Agosta. Garam Masala. Thank you. Garam Masala. Il suono del clubbing tra down tempo e up tempo. Garam Masala con Salvo Borrelli e la regia di Roberto Agosta. Thank you. Garan Masala, Funk Soul, Afrodisco Classica, Re-edit House e Deep House. Garam Masala.